Pane, burro e rock and roll. Sono le 7 e 30 minuti primi. Già decollata l'astronave che ci porterà dritti alle 9 del mattino. Lampione già spento. Ci ha già abbandonato il lampione crepuscolare, ma che ce frega? Noi ci avevamo a torta de Garla. Vi siete persi la prima mezz'ora? Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace. Un abbraccio all'autista di Firenze. Un anonimo. Ho davanti una macchina con l'adesivo della Treves Blues Band. Massimo rispetto, ma io voglio l'adesivo di PBR. Arriverà, ci lavoriamo. Saluti a Marco 110. Un altro, ascoltarvi ogni mattina in auto è contro il codice stradale. Inavvertitamente il volume della radio si alza e l'acceleratore si abbassa e tutti gli automobilisti sembrano troppo poco rock. Ciao Daniele. Attento con l'acceleratore, I still haven't found what I'm looking for. looking for you too. La diretta mattutina di Rock FM. Abbiamo Roberto, autista rock da Milano, che ha preso una decisione saggia. Ok, in servizio ho deciso, non vi ascolto più. Non posso continuare a saltare le fermate, la gente poi mi sgrida. Avanti, stupitemi. No, come? Allora. Benvenuti, benvenute. Vi accogliamo a braccia aperte, o almeno questo è il tentativo. Un saluto particolare ai cosiddetti radioascoltatori frazionati, quelli che non riescono a sentire tutte le due ore di Pane, Burro e Rock and Roll. Beh, intanto vi siete già gustati l'inizio di oggi, che gli altri non sentiranno mai, o meglio, non lo sentiranno mai in diretta, magari poi lo potranno risentire in streaming o sulla nostra pagina di MySpace /paneburrofm, però non si gusteranno mai la diretta. Vabbè. Mentre qualche giorno fa gli amici della seconda ora si sono gustati un documento storico. Documento storico che qui a PBR chiamiamo "E se avessero registrato così?". Sono ipotesi con le quali ricostruiamo la storia della musica rock, lì dove le canzoni stavano per nascere, in sala di incisione. L'iperbole che riguardava il, aperte le virgolette, "e se avessero registrato così", chiuse le virgolette, riguardava Joe Strummer, celebre cantante, chitarrista dei The Clash, e ce lo siamo immaginati presentarsi alle session di registrazione di Rock the Casbah, però si era svegliato un po' così, un po' smemorato, un Joe Strummer smemorato che non ricorda bene che canzone sta andando a incidere. E allora, grazie alla radio, possiamo immaginare anche alle 7 e 37 minuti primi. Buon ascolto. Good morning, Joe. Oh, good morning to you, my dear friend. Are you ready to record a new song? Absolutely, yes, of course. We got Rock the Casbah. Oh, yeah, it's my favorite song. Okay, if you are ready, we can record it now. I'm ready, of course. With intensity, Joe, eh? Oh, yes. You are a fucking punk rockstar. Yeah, you can say it loud. You are a fucking punk rockstar. Yes, thank you. Not literally, but anyway. Okay, we can go. Let's go. It's 3, 2, 1, Joe. Write the story of punk rock now. Yeah. London calling to the faraway towns. Now war is declaring, the battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, hey, boys and girls. Hey, stop, Joe. Was everything okay? No, it was not okay. You are singing London Calling and we are recorder Rock the Casbah. It's another song. Ah, it is. Sorry, I'm so sorry. Please, could do it again? Yes, we can do it again. Are you ready for Rock the Casbah? Yeah, Rock the Casbah, absolutely. It's my favorite song. Okay, not London Calling. No, Rock the Casbah. Yes, Rock the Casbah, not London Calling. Yeah. Okay, go, Joe. 3, 2, 1, go! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you said that you are mine, I'll be here till the end of time. Yeah. Huh? Good. Isn't it? No, Joe. You are singing Should I Stay or Should I Go? Yes, it's my favorite song. No, okay, but we are recording Rock the Casbah, not Should I Stay or Should I Go. Rock the Casbah, yes, it's my favorite song. Yes, but you are singing Should I Stay or Should I Go? What's the problem? It's my favorite song. Yes, but it's another song. I see, but I liked both. I like them too, both. I like both them too. Yes, Joe. Maybe it's better if we record it tomorrow. Don't know. Maybe. But I like them. I like even tomorrow. Okay, see you tomorrow. Yeah. Centinaia di fogli che la nostra redazione partorisce giorno dopo giorno, abbattendo la foresta amazzonica centimetro dopo centimetro, abbiamo i compleanni del giorno. Cosa ride, maestro? Non rido perché noto la faccia del nostro redazionista stacanovista Isacco, che si è sentito in qualche colpa, modo si è sentito responsabile ed ha accusato il colpo. Togliamo quest'aura di tristezza con i compleanni di quest'oggi. Partiamo con il 1922, 15 di novembre, nasceva Francesco Rosi, regista e sceneggiatore italiano. Tanti auguri, no, al grande maestro Francesco Rosi. Vuole ricordarci dei film? Naturalmente sì, prego, sono giusto, qua se ce la fa. Apposta. Sì. Allora, i film di Francesco Rosi, Uomini dentro, no, un film di scottante denuncia omosessuale. No. Uomini contro era. Il caso Taddei. No, ma perché? Ma così, il caso Mattei, ma li legga bene, ce li ha scritti. Lucai Mariano. No, Lucky Luciano, e dai. E Cristo si è fermato a deboli. Esatto, questo l'ha azzeccato, Cristo si è fermato a deboli. Ma vorrei sapere io, lo dico, perché Cristo continua a fermarsi a deboli, Guardiamo avanti. Andiamo avanti, esatto. Alla stazione successiva. No, 1945 nasceva Ani Frida. Cognome? Lo sapevo che si sarebbe inceppato la mitica cantante svedese degli ABBA, Annie Lindstad. 1952, 15 di novembre, nasceva Antonella Ruggiero. Cantante italiana, mora di capelli. Esatto, questa l'ha azzeccata, mi canti subito Vacanze Romane. Paese che non ha più campanelli. La sta prendendo un po' alla napoletana, ma meglio così forse. Le confesserò che non avevo più in mente la melodia, quindi me la sono inventata e se lo tenga. Chiudiamo con il compleanno di Ozulu. Luca Ozulu Persico, sì, cantante dei 99 Posse, rapper, nasceva nel 70. Siente mammo, siente mamme, sienta Ozulu. Ozulu, siente mammo, siente mamme, siente Ozulu. Bravo. È arrivato l'arrotino, donne. L'arrotino. Lei è pazzo. L'arrotino ombrellaio. Andiamo di là, andiamo è di arrivato là. L'arrotino ombrellaio, donne. E me, che c'è? Another day. No fun in my day. No fun. No fun in my day. No fun. By myself. dispiace dover smentire il giovane Iggy Pop in compagnia dei suoi Stooges, che cantava No Fun, nessun divertimento. Beh, insomma, qui a Pane e Burro Rock and Roll, sarà per la presenza di Roberto Fricantoni, sarà per l'acume dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici, ma ho onore del vero, un po' di divertimento c'è. Occupiamoci di altro. Giovedì 15 di novembre, siamo già a metà del mese che anticipa il Natale e tutto sommato l'MLM, piano piano, le città si stanno riempiendo come ogni anno di segni innegabili che il Natale si sta lentamente avvicinando. Devo confessarvi che secondo me quest'anno si sta avvicinando più lentamente del solito, ma forse non dovrei essere io a dire questa cosa, dovrebbe essere il nostro tassista di riferimento che gira a Milano ormai senza più pensare ai suoi clienti, ma solo alla possibilità di segnalare luminarie natalizie per Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao Tino! Ciao, ciao a tutti! Come va? Beh, bene, grazie. Forse c'è ancora una speranza? In che senso? Nel senso che sì, qualche luminaria c'è ancora in giro, però non sono ancora accese. È vero che sembra più lento rispetto al solito? Ma sì, sembrerebbe. Vediamo cosa succede. Dai. Dici che forse quest'anno il Natale non lo fanno? Magari, dai! Certo che abbiamo scelto proprio il peggiore di tutti a fare questa rubrica, eh? Ti ricordo sempre che c'è un amico che ci ha chiesto gentilmente di non dire espressamente che siamo contro il Natale, sennò perdiamo sua moglie. No, io ribadisco, confermo che sono solo mie opinioni personali. Perfetto. Senti, stamattina non sei ancora in servizio? No, non ancora, ancora tra pochi minuti. Quindi sei in taxi, solo soletto, per fortuna. Esatto, per una volta sì. Hai qualche segnalazione da farci? Sì, certo. Allora, vi posso segnalare che in via Solari, in via Paolo Sarpi, ho assistito al montaggio delle luminarie. Ah, bene. Quindi c'erano dei camioncini che stavano mettendo appunto, con gli operai che stavano montando le lucette varie. Eccetera. Sulle scale andavano su? Sì, esatto, avevano una specie di cesto con un braccio meccanico. Alla e fai. Non so, in via Solari ci sono gli alberi e quindi mettevano proprio delle lucine sugli alberi. Ce l'avevano, sì. Ce l'avevano il caschetto antinfortunistica? Sì, anche il giubbottino giallo. Ah, bene, no, sennò scattava subito la denuncia, capito? Esatto, non vedevo l'ora. Pane, Burro, Rock and Roll, denuncia subito e al volo. Esatto. Senti, esatto. Che tipo di luminarie erano? Ma erano semplicemente delle lucine, perché sugli alberi era proprio quell'effetto puntino illuminato. Tra l'altro, a proposito di lucine natalizie, chissà se ribecco l'SMS, c'era qualcuno? Ecco, che proponeva un Teleton per Rock FM, doniamo un euro e compriamo le frequenze perché vi sentiamo come le luci di Natale a intermittenza, scriveva Nicola. Vabbè, bellissimo, oh. Sì, ci sto di brutto. A dare un euro, lo so, caro. Sì, caro Tino, so che tu daresti anche di più, esatto. Certo che... Permettimi di ricordare agli ascoltatori che oggi è il giorno nel quale iniziamo i provini per diventare musicisti rock con la bocca. So per certo che anche tu ti eri iscritto, ma ti abbiamo un attimo spostato in scaletta. Ti volevo chiedere scusa personalmente. Ma figurati, ma credi, io ci tengo tanto e invidio intanto chi fa i provini. Esatto. Prima, iniziamo con gli altri, perché non volevo che se iniziavamo con te poi dicevano ecco, quelli là fanno favoritismi perché Tino fa il tassista, già li aiuta, capito? No, ma Rock FM è una radio molto serio, grazie. Siamo puoi scommetterci, Tino. Senti, buon proseguimento di giornata. Grazie Ariel. Senti, posso fare un salutino al volo per una volta? Vai. Volevo salutare la signora Carla, che è una grandissima. Io la ammiro di brutto e volevo chiedere se mi adotta come nipote. Le faremo sapere, Carlo. No, sì, Carlo, buonanotte. Tino, io appena citate la signora Carla, il mio cervello va in palla. Penso solo a quello. Immagino. Grazie, Tino, a presto. Ciao, un abbraccio a tutti, a presto. We'll be right back. aux enfants de la patrie. Ehi, Rogna, ma cosa canti? Ehi tu, Marrano, come ti permetti di rivolgerti a sua maestà, l'imperatore Napoleon Bonaparte, in cotal sprezzante maniera? Tu non sei Napoleone, tu sei rincoglionito. Andiamo, miei prodi, aux enfants de la patrie. Ma pianta la Rogna, che ti sedano se vai avanti così. No, Sant'Elena non mi avrà. La Gioconda è tutta mia, restituitemela! Questa si chiama schizofrenia. Schizofrenia? Jamai, jamai, mio caro amico Frigo, jamai. Se solo non avessi questa zampetta sotto il panciotto, ti darei un bel ceffone, carissimo mon ami Frigo. Ricordatelo.